Aspetta, prima di farmi la doccia, provo a vedere che c'è in linea. Chi c'è in linea? Io ho visto lo smitter muoversi che stavo guardando due stronzate al computer. Hai detto, chi è? Perché oramai il tuo segnale è uguale agli altri, capito? Ma stai attento. Tu sei sul più del 30, sì. Figurati, hai visto cosa vuol dire avere una buona antenna? Tu sei 9,15, quindi. Capito? Adesso ero abituato al tuo segnalino, adesso sei alto di segnale. Poi ieri non sentivo nessuno, c'era il QRM Santiago 7, quando attaccano le pompe devo trovare qualcosa per schermare l'antenna, non so se dipende dall'antenna o dalle pompe, No, secondo me da quelle pompe lì. A me me lo faceva quando ero via Pascoli, che c'era la pompa di calore, e quando attaccavo la pompa di calore praticamente faceva QRM, capito? Ma disturba anche segnali tipo 995, li disturba, proprio li rovina la radio, se scarica sono micidiali. Io stavo pensando, non è che sia il fatto perché ho messo quei bulloncini a posto del PL, che non sono schermati, che sono diciamo faccia a vista. Su un'antenna verticale non so risponderti, non me ne intendo. Però io ho tutte le antenne così e disturbi non ne ho. Non ho mai avuto problemi in HF con questi rumori così strani, capito? Minchia, ma impressionante, tu si rovina tutto, va. Non posso neanche entrare, tanto non sento nessuno, e quelli che sento li sento malissimo, anche segnali alti. Mi disturba tutto. Io ho pensato a quello, oppure le saldature non sono ben isolate, non sono bene schermate, che lì una volta che tagli interrompi la schermatura del cavo. Ciao OG, buonasera, lo senti a Franco? E OG, Franco il lo senti fra Eugenio? No, negativo, dov'era Eugenio? Da dove modula? È in macchina sì, OG. Figurati, ti sente basso lui, a portatore sì, OG, in macchina. No, l'incrocio per uscire a portatore sì, vabbè. Però hai visto, già arrivi in macchina a portatore, immaginati dalle altre parti. Va bene. Mi prendi fra? Quella parte c'ho la casa, capito? Quindi sono tappato, guarda, verso quella parte lì sono cieco proprio. Vabbè, però già, vedi, un pelino ti ha sentito, quindi non penso ci siano problemi. Mai sul tetto dovrei prendere, dai. Sul tetto forse dovrei sentirlo meglio, perché è libero verso il portatore, perché la casa che ho davanti è quanto la mia, se non più bassa. Lo so, però già quarantena sta facendo miracoli per come è posizionata, quindi non ci dovrebbero essere problemi. No, l'unica delusione è questa schermatura che mi ammazza, queste due pompe di calore che ho attaccate, una a destra e una a sinistra, una in alto mi sembra, e una proprio a fianco. Quelle mi ammazzano, guarda. Vabbè, piano piano già vedrai, fai delle migliorie, riuscirai ad arrivare più forte, là. O ricevere meglio, perché il segnale tuo è buono, quindi non ci sono problemi. Avanti genio, dove stai andando a lavorare? Vieni a vendere dei baracchini, Franco. No, sono nuovo. C'era tanto tempo che non lo stava più usando, capito? Tutto qua. A casa siete fra stasera? No, dobbiamo scendere ad Alghero, ci hanno invitato gli amici in pizzeria ad Alghero. E poi andremo a fare qualche serata, dai. E poi dormiremo lì, non rientriamo perché non vorrei che si fa tardi, me ne sto a Alghero. Vedi tu, vai a casa a Chivi, ora stai a viaggiare. Fai bene. Ma non è neanche bella la giornata, sembrava più bella, un po' nuvoloso, speriamo che domani non piova, non so, non ho visto neanche il meteo. Ma non so, mi sa che non ne ha messo più, spero di no, neanche io. Quindi stasera gli abbiamo fatto un po' di olive, e un attimo è venuto anche caro, ma non male darci una mano. Ma c'è, enormi queste olive, però sembravano olive da confetto, sembravano. E poi non staccavano, le abbiamo fatte tutte a mano, perché neanche con lo strumento, con l'abbacchiatore, non si staccavano. Addirittura, vabbè, l'importante è che abbia fatto qualcosa, beh. No, noi le abbiamo comprate l'altro giorno. Guarda la fruttivendola che le fa, sono buone. E Anna, ma più gana e vannuta, no. Non lo sai. questa noia, vai Franco. Ma si sta avvicinando questo qua, perché ancora nulla, no, non riesco a sentire. Comunque salutamolo tu, fammi la cortesia. No, non si sta avvicinando, sta andando al porto, perché lui abita lì a Lilioni, la casa sua sta andando al porto, che lavora lì, capito? Lavora lì a Tirrinia, quindi non sta venendo verso Sassari. Anzi, si è allontanato ancora di più perché è basso anche qua, capito? Ti saluta Franco e oggi. E vabbè, dove ce la tieni? No, io devo dire quello che fai. Già mi sono capito io, lavori lì, lavori lì. Va bene, dove ce la tieni, vai. Va bene. Ok, no, è basso anche qua adesso, fra. Prima era Santiago 8, 9, adesso è 5. Ma abbiamo già provato in altre occasioni con Eugenio, capito? Quando entra lì in quella zona d'ombra del porto è un casino. Adesso provo, vediamo un po' se mi ascolta, provo a aumentare un po'. Allora, attenzione Eugenio, dimmi se mi sente, Claudio. Eugenio, mi senti? Ma il bip già? Ehi, sì, ha detto che già ti ha sentito adesso, basso, ma ti ha sentito, guarda che è in zona d'ombra, è molto basso qua, la posizione che ho io è molto bassa. È riuscito a tirarti fuori quando hai agganciato fa. Sì, così, non accordo, comunque sono 1 e 3 stazionarie. Allora, comunque ho sentito il bip, quindi qualcosa l'ho sentita, Hai sentito Elisabetta? No, c'è l'antenna bassa. Ha detto che la circolazione di portatore sarebbe fortissimo fra. Addirittura. Esatto, sì. Addirittura si è messa a ridere, ma già, se stai dicendo che lo senti, vuol dire lo senti. Il problema è che lui sta andando con un centinaio di watt e tu invece sei sempre un piccolo baracchino e boh, se avessi avuto un linearetto troppo in quella macchina e ci vuole, questi problemi non ce li avevi, capito? Capa, ti ascolto, chi sei? Adesso sento anche te, prima non ti sentivo, aspetta che stacco, non vorrei disturbare un po' di gente qua, va? Ciao, va, buonasera, ben sentito. Il lineare già ce l'abbiamo oggi. Non mi sei mai a casa, cosa devi attrezzare a casa, Roger Gupesso? Dove cosa devi fare a casa? Ma da saluto così, mettiti un lineare in macchina, ti ho detto, mettiti un lineare in macchina. Ce li abbiamo sotto mano, uno meglio dell'altro, te ne metti uno, capito? E te lo tieni staccato quando deve essere staccato, quando non ti sentono attacchi. Il problema è risolto, caro Eugenio, capito? Tu che stai sempre in macchina. Vabbè, però vedi che necessita, perché tu senti a Franco. Franco non sente a te perché tu sei più debole. Tutto lì. Ciao Franco di Giosciu. Chi è che ha detto Bobo? Avanti, un kit di Bobo. Alghero, Eugenio, vai Eugenio, Valerio d'Alghero. Te lo sento appena. Hai visto? Già senti anche Alghero. Cosa ride? Piano vedrai che migliora tutto. Piano vedrai che già migliora tutto. Avanti Sorso. Io lo sento a livello del QRM, però ti sento, adesso sono liscio, mi senti? Adesso mi senti? Bene, ho capito Santiago 7, Cla. Sì, sta arrivando Santiago 7 ad Alghero, con l'iniera attaccata però, quindi muoviti a metterla sul tetto quelle antenne, che non hai bisogno di attaccare l'iniera. Oh via, vabbè, mi sto prendendo. Nel poggioro. No, nel fil di ferro per prendere, ce l'ho qui davanti alla finestra, va. Qui devo aprire il tetto per uscire fuori, non abbiamo uscita sul tetto, capito? No, insomma, io non è che ti ascolti benissimo, quindi penso che neanche tu mi ascolti benissimo lì. Questo è un po' avaro. mi sta arrivando tre con dei picchi positivi. Aspetta, però mi devi dire quando ero liscio quanto ti arrivavo. Prova a vedere. Guarda un po', 1, 2, 3. E adesso sei 2 di 7. È sceso di 2. Ripeto, questo l'ho tirato su questo smitter, ma forse ancora un po' avaro. Non l'abbiamo tarato come si deve, dai. No, già va bene, dai. Sì, sei 2 di 7, no, è sceso quasi 2 di 10. Da 9 è sceso a meno di 7, quindi quasi 3 punti, no, più di 3 punti in meno, 3 Santiago in meno. Guarda, poi mi avete provato il 2. Così è oggi, e a 6, tutti i 7, tutti a 8. Ecco, ti sta chiamando oggi. Non lo sento, mi dispiace. Adesso mi arrivi in manetta tu. Strano, perché a un certo punto ho sentito il suo beep, forse era in movimento, quindi ho beccato qualche canale suo dove entrava, e poi invece l'ho perso nuovamente. È possibile che gli arrivino di riflesso a lui le onde o cla? Cioè praticamente io sbatto verso il muro di fronte e rimbalzano verso il porto torre, blu? È quel pezzo di punta che esce che ti sta dando il segnale, però la ricezione ce l'hai scarsa perché non è libera l'antenna. Devi fare di tutto fra per metterla su. Qualcosa devi fare, attaccata a qualche parte, ma deve essere libera. E tu vedrai, ma mica sei 9.15 qua, mi stai scherzando. Santiago 7 liscio a sorso, a prescindere dalla posizione che ha Franco, ma attaccato arrivi ad Alghero e quell'antenna ha bisogno di essere messa sul tetto perché è eccezionale, l'hai fatta veramente, è un'antenna autocostruita. Aspetta, sta funzionando veramente bene. Ottimo per la truppa, va bene che va bene. Aspetta, è vicino a via Pascoli lui, dai. Vicino a via Pascoli, praticamente di fronte a Gianni, e quindi per te è aperto, fra. Non lo so. Sì. E allora per me è aperto, è apertissimo. E Gianni mi arriva molto forte, lo sai. E diciamo che, vabbè, Gianni c'ha l'antenna anche sul tetto, mentre lui no. Aspetta, però per averla sulla finestra, sul tagliolo, diciamo che mi arriva benissimo, Sì, praticamente l'antenna parte dalla finestra, allora io l'ho collegata alla staffa per stendere, però la punta, siccome è alta 7 metri, riesce ad arrivare alla parte bassa del tetto, però sono circondato dai palazzi qua, quindi non sporge dai palazzi, è sempre all'interno di uno, di un giardino, dai. Faccio mettere una truppa su un palo sotto e allungarla un altro po', e allunghi, intanto a questo cassetto quella lì non c'è da viare. No, è quella con la canna da pesca, una game mat, dai, autocostruita. Sì, vabbè, però diciamo che lui è carico adesso, perché io non so come... lui è caricato, se no non ci arriva lui. Ehi, ciao Eugenio, buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ehi, ciao Eugenio, alle prossime. Ciao Eugenio, buon lavoro, alle prossime. Valerio, riprendi. Ehi, ti sento basso, ma ti sento. Ma chi lo sa? Arriverà il momento di provare anche l'antenna sul tetto, là, se Dio vuole. Riprendi qua. Beh, certo. Certo che sì, se metti l'antenna sul tetto chiaramente i discorsi cambiano, non è che ci sono pochi discorsi da fare. Sul tetto radia molto meglio, però diciamo che in linea di massima ti stai difendendo abbastanza bene, dai. Per come è messa l'antenna e per la posizione in cui si trova, va bene, va bene. Ok. Poi chi c'è? Boh, c'è altro nessuno, riprendi tu Franco di Sosso, vai. Sì, nelle condizioni quando io ti ricordi quando sono rientrato qua, e avevo un lavoro con l'antenna in terra, in terrazza, all'inizio. Oggi era tutto in condizioni. Vabbè, però lui che aspetta, arrivava a Santiago 7-8 qua, arrivava attaccato 9, adesso 9.15 liscio, 9.10 da liscio, quando attacca 9.15 abbondante, 9.20 quasi, quindi è un segnale, oramai con un segnale di rispetto chissà, sarei io. Allora, mi fate emozionare. Oh, yeah. Vabbè, dai, comunque sono contento. No, vuoi sapere il guadagno di questa antenna quanto possa avere? Poi ci vuole uno strumento per controllarla, no? Beh, ci vuole tutta l'antenna per sapere quanto di guadagno. Caratteristiche di quell'antenna io non la conosco, non so. Comunque, se dovessi mettere l'antenna sul tetto, io metterei la manta, ma visto che ce l'ho. Ma sai chi saprà, lascia più la manta, lascia quella, più leggera, meno ingombrante, non ha radiali, non fischia, lascia quella, fottiditi, lascia quella, che ti sto dicendo che se quella la metti su, dove c'è l'antenna TV, non lo so che segnale riferisti qua, non lo so, ma soprattutto la Franco. La Franco sei di fronte, Portoglia ce l'hai di fronte, Alghero lo stesso, arrivi benissimo a tutte le parti. No, perché mi sembra ancora un po' sorda come ricezione, in trasmissione è una bomba, però come ricezione mi sembra ancora un po' sordina. No, sorda vai la radio, tu non l'antenna, no, altro che... Non ho capito. Che sorda è la radio, non l'antenna, no. Ma anche a me la radio, cioè, dovrebbe essere... tipo non so, una radio 5, invece no, sono bassi anche di radio. E appunto, è la radio che in mezzo drulla, capito? Se metti una radio come questa lì con quell'antenna senti la ricezione. Comunque, si vedrà anche quello. Tu adesso la prima prova che devi fare è metterla sul tetto. Capito? Metterla sul tetto e poi ti accorgi se hai segnali, perché automaticamente quando hai il segnale basso anche la radio è bassa, in mezzo a quella è matta, ma se il segnale è alto, che lo ricevi alto, stai tranquillo che anche la radio è bella forte. Avanti Alghero. Ho capito. Sì, l'ho sentito anche ieri, adesso è sganciato, è Santiago 7, il suo segnale l'ha sganciato. Quando aggancia arriva 9, abbiamo già fatto le prove ieri, abbiamo fatto tutto, il lavoro è stato ultimato, vale? Sì, tutto fatto, tutto a posto, non problem, tutto ok. Io no. A Giuseppe, e ancora no. A quest'ora no, non può agganciare lui, è liscio qua, è Santiago 7. L'aggancia è Santiago 9, ma c'è una zona molto particolare, capito? Però vedrai che già riesci a sentirlo, non ti preoccupare. Ah, lo senti tu lì a Sosso, fra? Quindi vedi bene che già il lavoro già è stato fatto a regola d'arte, dai. Non è un problema, già va bene. Avanti, Franco di Sassari. Che apparato c'hai, Fra, tu? Non ho capito, scusa. Con che apparato stai uscendo, se lo puoi dire? L'antenna. L'antenna è un automatismo. Sono sul tetto, sul terrazzo, là, sul terrazzo, in alto, molto in alto. Cario un capo. Allora, roba seria, là. vabbè, sì. No, dai, già siamo nettamente più sensibili di questi. Questi sì che siamo baracchini. Cioè praticamente identico, cambia solo, mi sembra c'è una banda in più, quell'altro e basta, però l'apparato è sempre sordo come questo. Sì, allora dobbiamo prendere controllarlo per la radio, ma già dovevo lasciarlo, aumentarlo di qualcosa. Io ho aumentato un po' la potenza, il rate, un po' la modulazione, un po' il segnale, ma il resto non so dove metterci le mani per il resto, tipo la sensibilità dell'antenna, dai. Io ho chiamato sempre 40 canali. farla scaldare. E quindi devono scaldare. È un vecchio apparato, l'ho preso, non ti lo stava dando, gli ho dato 20 euro e me l'ha dato, l'ho sistemato, c'è un po' di rumore di alternata, adesso è un po' messa male, un po' scarico di condensatori, boh. No, comunque già esce, già funziona, dai. Oh, dai, io rimango un attimo in quel rickshaw che devo andare a sistemarmi. Se ci siete ci sentiamo dopo, dai. Lascio tutto acceso qua. Comunque sono qua. Non riprendo, vorrei darmi una sistemata, me lo farò la barba, eccetera, eccetera. Riprendi tu, Franco di Sorso, e fai girare, dai, ci sentiamo dopo. Una mezz'oretta mi assento. Ehi, allora vai per il primo turno, non ti preoccupare. Vai in una giandella di rosa, non mi rinviso i nuovi, vado a fare colazione, giornale, sigarette, una passeggiatina, sempre la giornata, se è giornata brutta me ne torno a casa Matteucci. E oggi è la bella però, vai. Sì, ma infatti ero tutta la mattina in giro, sono uscito a prendere il caffè con degli amici, poi sono stato a casa, poi sotto la poscia, poi gioco durato la pescia, tutto la mattina in giro. Non è un problema, sabato e la domenica e va bene, però stare a casa la domenica è un piacere, dai, rispetto alle altre volte mi dovevo bisogno. Tutte le domeniche a regia vado a travagliare, ma adesso è finita, finalmente è finita. Poi l'inizio settimana è sempre triste, capito? Ma lunedì c'è il mercatino, mi ha sorpreso, una volta mi sentiamo al cane, andiamo al mercatino, sempre la giornata, una passeggiata, prendo un po' di frutta, un po' di spesa. Ciao, passa Romanzano. Sì, io lo credo. Vabbè, tu già sei vicino lì al mercatino, già va bene, non è facile. Sì, il mercatino, il mando. Sì, tutto piazza le segne, capito, fra. E quindi già va bene, dai. Va bene, dai, vado a darmi una sistemata così poi mi siedo e mi rilasso. E sono stato proprio fame. Se tipo visto lo Smither muoversi e c'era Franco che stava provando, quindi sono entrato. Mi sarei già sistemato, ma invece mi sono occupato già binocchi. Riprendete voi, vai Tattari. Ehi, capo, anch'io mi devo preparare lì. Cavolo, sono arrivato qua a magliettina, mi piglio il guru freddo. Dai, ci aggiorniamo tra un po', dai. Mi faccio la doccia, poi una volta che sono pronto lo riprendo. Poi aspetto la signora, che si prepari lei più lunga di me intanto. Va bene, ciao Claudio, a dopo, ciao Franco, riprendi. Sì, va bene, dai Claudio, ci sentiamo più tardi, dai, allora. Ci sentiamo. E quindi ne approfitto per la cosina io. Ciao Claudio, ciao Franco, e ciao anche Valerio, se mi ascolti. Vai. Ehi, per tutti, dai. Ci sentiamo dopo, sono già le 6:50, ancora è troppo presto, sennò a quando alle 8:30 non sappiamo cosa dire, dai. Ci sentiamo dopo, vado a sistemarmi, KK. Ehi, ciao Valerio, scusa poc'anzi mi sono dimenticato. Ciao Valerio. Ciao. Chi è? Ok, tu sì. Non è serio. Ecco che lo vuoi parlare. Ecco, tu. Ah, io sì. Già, aspetta che mi sto facendo la barba, rientro subito. Ehi, c'è uno con la stanza che si prende. Cosa? Che c'è uno che c'ha la stanza, invece, sta prendendo così adesso. Lascia ridere, quindi aspetta un attimo, arrivo subito. E qui ti devo telefonare anche, prendi il telefono. Ehi, allora, non c'è niente. Basta lì. Tutti morti? Vabbè, grazie, tutti morti. Oh già. Come è andata quella roba là? Hanno scritto questo è il minimo. Questo è il minimo? È il minimo che possa succedere. E vabbè. Tu informati se il nominativo è quello e poi fammi sapere. Sì. Ma presto mi ricordo, se mi ricordo bene è questo. E allora fai quello che ti ho detto. Adesso che tu siete in mezzo so già. Un po' la portare a Pippo che è uscito presto. Vabbè. Niente, stamattina ho visto a Stefano, ho preso il caffè, due chiacchiere. E poi vabbè, abbiamo deciso la prossima settimana. Andiamo a mangiarci una pizza. E andiamo a quello che ci accontentate. Dove voi andiamo, non c'è nessun problema. No, non ha problemi. Non mi devo fare andare a lavorare. Quindi ci possiamo trattenere, possiamo fare quello che ci piace. Magari possiamo farlo di sabato a coso. Nella come si chiama? Vicino a Bimone. Che mi si canta, eccetera, eccetera. Poi vabbè. Ci sono diversi punti, adesso puoi dire anche Piazza Pola c'è sempre festa. Ieri c'era Lucio Battisti, praticamente le canzoni di Lucio Battisti, dei cantanti che facevano le canzoni di Lucio Battisti, capito? Sì, ma anche oggi, stanotte mi sembra sia visto in fare su Piazza Italia, perché c'è il coso della Confcommercio, cos'è, coltivatore di diritti. Sì, ma se no, è roba di passare. Beh, lui, Sanna, non è pastore, c'è un'azienda agricola, però è molto bravo cantando, come Piero Marra, se vai, più o meno fa le stesse canzoni. Ho fatto con la videolina stamattina, era pieno di gente. Perché che per l'Italia l'hanno fatto come si è coltivato il diritto? Eia, c'è la sagra, c'è tutto, stanotte c'è festa lo stesso. Oh, è buono, ma c'è freddo, c'è umidità. No, noi siamo ancora a misericordia. Non mi interessa, guardami, c'è lo sport stanotte, mi guardo Napoli-Milan, adesso mi porto il cane, pure ho detto a Anna di preparare, sono le 8, poi ci un quarto, ceniamo, poi mi si chiudo il divano, al calduccio, già, e basta, e sto facendo così la sera, poi un paio di chiacchiere così in radio, e poi la TV e via, stamattina in giro. E poi sono rientrato, mi ha chiamato Stefano e sono uscito a prendere un caffè con lui in Piazza dei Sedici, sono rimasto un'oretta parlando, guardando due foto, due cose su WhatsApp e poi ce ne siamo andati. Tutto qua, e ci è passata la mattinata, dai. E avete fatto bene. Io sabato mattina non ce l'ho libero, ma la sera sì, perché sto facendo adesso i studi di mattina, quindi sono capito. Adesso appena ci abbiamo un attimo di tempo, Flavio, facciamo quel lavoro dell'antenna. Magari andiamo in garage da Liliana e lo facciamo lì. Non ce n'è problema. Ce ne ho posto anch'io qua. C'è la corrente giù, siamo sotto il porticato, ma deve essere una giornata bella che non ci sia freddo, capito? E si fa. E la corrente dove la fai? Giù, dal piano pilotti, dove sono i contattori, c'è la corrente lì, c'è la presa, tutto. Una volta mi affido la macchina io, lì, l'estate, capito? Porto giù la prolunga, l'attacco e mi aspiro la macchina con l'aspirapolvere. Ci vuole un trapano piccolo però, perché ce l'ho un bel grande trapano, c'è di quelli a percussione, quelli grandi. No, trapanino piccolo ci vuole allora. Trapano con le punte in ferro. Già ci organizziamo già, tu mi dici quando, te l'ho detto, non ce n'è problema, e si fa. È una sera, perché una sera che c'è per tempo non si può fare, perché io la mattina la domenica mattina, se no quando c'ho un matto e sono libero, allora sì, possiamo parlare la domenica mattina. Sì, quando vuoi tu non ce n'è problema. Tanto te l'ho detto, io sono libero adesso, sia di mattina che di sera, non ho impegni, capito? Tempo buono, magari su devo fare ancora pulizia, di fare a sbarazzare, a portare via la roba che non serve, togliere le antenne e invece di fare cose, però lo faccio a tempo buono, capito? A tempo buono, in modo che poi sono libero per quello che devo fare, okay. Io il prossimo anno già devo cercare di andare via da qua, se no l'investimento che ho fatto va a farsi fottere. Vuoi andare oggi? Già, devo andare via, no? Se no come fai? Se no l'investimento non è più quello, alla fine volevo fare, però poi abbiamo fatto un giro di conti e non fa, posso mettere anche la liquidazione per finire tutto, ma no, se no quando non vengo qua non mi muovo già, perché se no mi mangio tutto. Ma devi fare una cosa contemporaneamente, perché se no tu rimanete a casa, e quindi quella non ne hai altro a finire. Nella vendita ho tre agenzie, c'ho Studio Casa, c'ho Tecnocasa, c'ho Eurocasa, in tutte le tre agenzie c'è la clausola dei 6 mesi di tempo, capito? 6 mesi di tempo, no? Non c'è un problema, quindi ho 6 mesi di tempo, anche se acquisti tu, io prima dei 6 mesi non te la posso consegnare, capito? Ma ok, non hai lo sfratto, allora se non ci mettiamo d'accordo, ma io mi arrangio io qui, non c'è problema, noi possiamo andare tranquillamente a casa di mia figlia, non è quello il problema, già siamo in due, noi siamo in debito, no? E è abbastanza grande, capito? Quindi se ti serve subito, se non ti serve subito che mi dai il tempo, io libero tutto e faccio bene le mie cose con calma. Nel frattempo si fa il compromesso, l'anticipo per bloccarla, dovrebbe essere il 30%, mi sembra una cosa del genere, quindi c'è scritto nel contratto, e poi vado via. Capito? Il momento in cui vado via mi devi dare il saldo, se no io le chiavi non te le do. A finirla? Sì. Dica già è finita, sì. I suoi uffici ci sono dentro. E pavimenti, boh. Ci vuole un bel di roba, già. Ci vuole un bel di cose. C'è da finire tutto, i due bagni, c'è da arredare tutto. Ci sono un sacco di cose da fare già. I soldi è stato quantificato dai 30 in su. È abbastanza, ti ha sentito tutto qua? Sì. Ma c'è da fare la laccio della luce, il contratto vendere, perché i contrattori sono due, capito? Sono fare un sacco di cose che poi alla fine, chiaro già come ti funziona, non è più come quando andavi alla... Adesso i mobili costano, tutto costa, capito? Tutto costa. Sono solo infissi. Sono ancora da mettere le porte, che vabbè, quello non è, però sono porte particolari, quindi costano anche quelle. C'è da fare un sacco di cose già, che alla fine ti ripeto, è quantificato i soldi. Ti bruci tutto, quindi abbiamo deciso di fare così, si vende qua e si finisce lì. Una volta che è finito lì, che sono 2 mesi di lavoro pieni, ok? 2 mesi di lavoro pieni, con tutte le finiture che sono da fare ancora, eccetera, interne, e allora si è a posto. Fai andando via da qui e andando lì. E le antenne te le trasferisci tutte là? No, antenne direttive, no, non le piazzo più, le tolgo, le conservo, le metto dentro la scatola, tutto. No, non mi interessa più l'attività amatoriale già. Mi tengo solo, metto solo la mantova e basta. No, non metto più niente, non, cioè, tanto sono soldi buttati e non serve più a niente. Non so, la licenza patente la terrò per la detenzione delle radio, perché ce li ho e quindi è giusto essere in regola, ma non mi interessa più niente. Infatti, una bella stazione civile, per tutti un giorno, si fa una bella stazione civile, che ti fai macchia all'occhio, con apparecchi galattici. Questo c'ho tutta la linea del 430, tutta la linea del 440 e queste saranno le mie radio. capito? Basta tutto il resto, o lo prenderò o lo conservo, vediamo. Vediamo, intanto di DFS ne ho già venduto uno, ne ho tenuto uno solo. Le V e le U, vediamo cosa farne, ma sarà molto ristretta la cosa, capito? Anche perché non voglio impegnare un'altra stanza come questa, perché mia moglie vuole stare tranquilla e serena, perché lì sono lo stesso. Due stanze abbiamo fatto, perché mia figlia era ormai indipendente, quindi due stanze, una grande e una piccola, e nella piccola lei vuole fare la lavanderia, vuole fare una cosa diversa da quello che qua, insomma, poi avrai modo di vedere, ci andiamo, ti faccio vedere tutto. Capito? Quindi non voglio fare come ho fatto qua, prendere una stanza per i cacchi miei, no. Basta già, basta. Prendo un angolino, ci metto una linea, la linea del 440 e basta, e uso quella come baracchino e boom, il resto tutto conservato, tutto a fanguarda. Magari non ci pensiamo, ma se l'isola dal resto della casa, ovvero la stanza così dipendente per te, gli altri hanno contatti vocali eccetera, e tu magari essendo lì pensi solo alla radio e trascuri magari il resto della famiglia, capito? Sì, ma infatti qua non posso, volerlo posso chiudere la porta, aprire la finestra, se fa una scelta eccetera, però invece è tutto aperto, non vuoi che senti, già la conosci la mia casa, è tutto aperto, cioè c'è la porta dell'ambito che posso chiudere, ma mi isolo, capito? Invece lascio tutto aperto, lì è diverso, però no, faccio come avevo fatto quando ero su andando piano, ho preso un angolino, ci avevo messo le radio, ma ne avevo un bel, adesso ho deciso proprio, non mi interessa più, magari col tempo farò decadere anche tutto il resto di quello che ho, ma non me la fotti di nulla, va bene così, non cerco nessuno mi cerca, va bene così, è andata così, va bene, d'altronde non lo sono mai stato, quindi, però queste antenne esteticamente non vanno bene, non le piace, assolutamente, se fosse stato il periodo estivo avrei già detto che è oggi, però purtroppo c'è sempre tempo brutto, capito, umidità, vabbè, aspettiamo, primavera, saliamo il sipario, così siamo tranquilli e sereni e dormo anche meglio, per quattro giorni c'è la maestrale, mi ha tralasciato il diporo, tutto il grido l'adice, è un casino quando c'è queste cose sul tetto, già cioè, a queste altezze, come che abbiamo un traliccio di 50 metri, ma buffandici, no, mi tolgo tutto e sono più tranquillo, ho le scatole, c'è mansarda, le metto a posto, le conservo, un domani si vedrà, o magari me le vendo, rotore, antenne, tutto. Io vai in Iraq e mi porto un'estate all'isola d'Ossa, capito? No, già, mai più vita mia, non mai più vita mia investire soldi in queste cose. Tu proprio non è passata la gana, quindi io sono fatto così, mi tolgo tutto già, non ci metto più niente. Tanto la mia vita è qua, io sono nato CB, morirò CB. Ma va bene così. E di Modena con la cosa lo sai? Di Modena, sì. La sede? Sì, la sede di Modena. Sì, la sede, ma guarda dove c'hanno la sede anche a Cagliari. E comunque, vabbè. Io gliel'ho mandata, non c'è nessuna risposta da parte di nessuno. Non ti ha risposto nessuno? Tutti zitti. Avevano detto solo che quello è il minimo che possa succedere. Il minimo? Sì. Se chissà se li ridi, solo il minimo, solo io. Sì, già c'è la gente di qui. Sì, già. Ce ne abbiamo già parlato. Mi darai una risposta, ecco l'obiettivo vero. Informali allora, e poi arrivo con la Yugai. È quella la cosa, capito? Non si scappa. Ma nel frattempo mi sto vestendo. Così, che ora sono le 8 meno un quarto, adesso porto il cane. Tu lo sai che l'ho mangiato, io ho pensato a matto. spogliatoio alle 5 e mezza, alle 5 e un quarto stavo lavando in piazza. Ho finito verso le 5 e un quarto, la mangiare. No, ho mangiato alle 2 meno 10. 2 e mezza avevo già finito, che stavo andando alla TV, piano piano, così. Poi mi sono tagliato un divano, verso le 4. Il messaggio te l'avevo mandato prima, e verso le 4 mi sono affatto, mi sono seduto poco a fumare una sigaretta, e poi verso le 6 sono andato e si è fatto la barba, il bagno l'avevo già fatto ieri, ho fatto una doccia, la barba, e mi sono trovato a posare i nocchi. Adesso vado, faccio una passeggiatina con Filippo, sino alle 8 e un quarto, 8 e 20, poi ceno già, la giornata è andata. Più o meno tutti i giorni lo stesso tran tran, dai. Da, piano piano, prima mi stavo svegliando un bel prezzo la mattina. Adesso sì, apro gli occhi alle 6 perché sono abituato. Poi mi riaddormento, però più delle 8 e mezza, alle 9, l'altra volta che una tenda mi ha preso in giro, ma mi sono cominciato alle 9 e un quarto. Capito, 9 e un quarto. Oggi stamattina avevo appuntamento con un coso e quindi mi sono andato presto lo stesso, alle 8 e mezza. Alle 8 e mezza ci sono uscito, sono andato a Piazza del Cine, ho passato al mio collega a prendere un caffè e quindi sono stato presto. Poi sono tornato, ho chiamato il cane, alle 10 mi ha chiamato Stefano e alle 10 e mezza sono uscito con lui e siamo rimasti un paio d'ore assieme a chiacchierare così a scazziare, come facciamo sempre con lui. E niente, e poi mi sono rientrato a casa, all'una ero di nuovo a casa, sono almeno un quarto. Io oggi ho finito alle 3 di lavorare, e poi mi sono fatto la spesa. Se non trovo mai il tempo di fare spesa, di fare... Mi ho fatto la spesa lì dove lavoro, e ho fatto un bel po' di spesa, caffè 100 e passa io di spesa. Già, tu magari l'ha fatto tutto il mese o per 15 giorni e noi invece un giorno ne spendi 20, dopo magari dopo 2-3 giorni ne spendi altri 20, alla fine sempre la stessa cosa. A meno che non ci sia l'aria a casa, allora prende la mamma, escono e quindi fanno il carico dell'acqua, il carico della carne, frutta, però io la frutta la prendo per tutta la settimana a Piazza del Cine. Adesso lunedì mattina mi sistemo il cane, verso le 9 e mezza alle 10 vado a Piazza del Cine, sembra la giornata, faccio il carico della frutta, un po' mista, capito? Un po' mista, cioè i cestini, e magari se c'è qualche pezzo di formaggio buono, queste cose così, capito? Mi porto un giretto e si abbiglia il luce. Ma io ho preso un po' di roba, ho preso frutta mista, ho preso verdura, ho preso del cibo, ho preso carne, insomma ho preso un po' di tutto, dai. Erano 10 buste, non ti dico altro. Ma certo, ma stai facendo un po' tutto quasi assieme, dai. Invece qua una parte è tutta assieme, poi quello che manca, siccome tante varie lì al Tanit, capito? Quindi se serve qualcosa le mando un messaggio, quando esce la prende lei, oppure va allo Spino o alla Cona, adesso. E vabbè. Va bene, dai già, io vado a portare a Filippo che sono meno 10, tu preparati e fa un po' tocca a te. Ok, se ci sei ci facciamo due chiacchiere dopo, se no a domani. Ok? Sì, intanto adesso glielo dato alle 6 a mangiare quando mangia più io, quindi non avrà la mia. No, beh, anche il mio mangiava alle 6 e mezza. Mangia a mezzogiorno e mezza, alle 6 e mezza, e poi lo porto, capito? In modo che non esca con la faccia piena piena. Poi un'ora dopo lo porto, dai. Un'ora dopo, un'ora e mezza. Adesso me lo vedo da qua, ecco ricatto sotto la TV nel lettino. Allora, mentre vede a me ponendomi i voti, viene in besa e si prepara anche lui, capito? Va bene, dai. Se ci sei ci aggiorniamo dopo, se no fai quello che ti ho detto, ok? Noi abbiamo pranzato, mia Alessi, non è capito forse. Sì, abbiamo pranzato a quell'orario, è sempre un quarto. 5 a mezza, sempre un quarto, abbiamo pranzato, io sono tornato tardi a casa. Ah, quindi stai prendendo le redini di Marcolino Congo? Sì, Claudio, perché te l'ho spiegato, loro aiutano i vagoni a questo periodo, sono un po' oggi, fare un po' di brio. Sono da lavoro stanco e colico e non la giocherai proprio. No, beh, ma cerca di reagire già. Fatti una moscia, vai, adesso mi dice Stefano, se volete, questa settimana ci vediamo, andiamo a farci due salti in padella, capito? E così ci svaghiamo, vai, non ti preoccupare. Cerca di stare tranquillo, questo problema che hai di salute già passa, piano piano, già passa già. A futti dini. Speriamo. Le medicazioni ci sono andate, adesso ci andiamo martedì, perché lunedì di mattina, martedì di sera, e posso andare. Vedete, mi faccio fare anche un fulvio per quella studiata. Esatto, esatto, fare le medicazioni già sono molto importanti. Cerca di seguirti e di rilassarti, perché se vai a lavoro così già non sai bene eccetera, è un casino, capito? Poi arrivi a casa, vedi, cosa ti magari ne va nuda, ti è amato, non riesci a seguire a lui, lasci cose indietro, e ci facci tranquillo e sereno, anche se non hai voglia che stai male, purtroppo, se questa azienda è così, se non ti mette in condizione manco di metterti in malattia, cosa vuoi là, pazienza. Dai, ci aggiorniamo dopo, ok? Ciao, bravo, ci sentiamo, dai, buona serata, adesso mi sprono un po', guarda, che mi c'è più che a te, perché non li ho finiti, devo andare a lavare le pezze, ci sentiamo, ciao. Ciao, già, se coincide a dopo, ciao.